che hai tempo da perdere. Vorrei che quella tua testa capisse il perché. Io non vorrò e non sarò neanche un attimo te. Ma non ti voglio nascondere che questa storia interessa ben poco anche a me.